Hey, gli ultimi dei primi, Big Bam al beat e il KWC al mic, la Mac Studio Rec. Inutile che ridi, inutile che gridi, nessuno può sentire gli ultimi dei primi. L'ultima all'entrata, la prima all'uscita, non era quella che per stare nel gruppo faceva di tutto. Volevo sfogarmi con i pugni, ma scrivevo, non erano appunti. Ora ritornano quei momenti per loro spesi, per me come frammenti davanti appesi. Ma una sfida data a una sfigata, l'ho aiutata a sopravvivere ad una realtà troppo malata, grata alla mia scelta incondizionata. L'ultima dei primi, nata incacciata, che ha visto cos'era stata, potendosene della moda, neanche un uragano l'ha spazzata. In quei momenti però spiazzata, ma non spezzata. E se tu fai piazza pulita sei spazzino dell'amico. E gli ultimi saranno i primi, dedicato ai bambini manichini. Sorridi dai che ti conviene, senti ciò che dico poi qualcosa succede. E gli ultimi saranno i primi, dedicato ai bambini manichini. Sorridi dai che ti conviene, senti ciò che dico poi qualcosa succede. Con queste rime traccio trappola mortale, per schiacciare la tua faccia immorale. Il mio rap unico come impronta digitale, pronta per spaccare nel reale. Tu racconti morale, in fiabe, con fogli strappati, in sacche, li voglio tutti estirpati. Meglio datati che cloni di coglioni copiati. Renditi conto, non leggi il confronto, leggi sul foglio, lo piego, sto stronzo. Dici parole senza valore, volere e volare perché un sogno nel cuore. Me ne fotto alla grande delle vostre bande, io sono una della stirpe degli Highland. Vedo il pop vero nel sangue, l'ultima dei primi scrive pagine bianche.